partita bella, è il derby d'Italia. Qualcuno magari può pensare che alla quarta partita, Inter-Juventus è il primo snodo dello scudetto. Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Abbiamo già letto che il mister è in discussione, però la risposta della società penso che ci voglia adesso. Devo rispondere come? Come vuoi. Dovrei dire, usare un termine che non è opportuno, perché ci sono anche delle signore, quindi dico solo che è una stupidata ed è sufficiente a far capire quello che è l'idea della società e di tutta l'Inter. Giustamente il calcio è valutato per i risultati. Se vinci sei bravo, se perdi diciamo non sei bravo, cioè non va vissuta come un fallimento il pareggio col Siviglia, perché sennò saremo tutti fuori di testa. Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Filippo Aureggi in regia, poi Roberta Frisani. Chissà se davvero è una stupidata che De Boer rischia la panchina già questa sera con questo Inter-Juventus. Chissà se ha ragione Allegri a dire che questo è il primo snodo scudetto. Intanto la Juve ci entra da seconda in classifica, perché ieri sera il Napoli, vincendo contro il Bologna, si è portato a quota 10. In questa domenica che ci ha già raccontato qualcosa, è sorprendente Chievo, che in questo momento è arrampicato al terzo posto in classifica, 7 punti. Il Sassuolo, che senza la sconfitta a tavolino col Pescara sarebbe secondo, 9 punti, 3 vittorie su 4, ha perso solo con i marziani della Juventus. E poi ci ha raccontato il primo KO del Genoa, il Toro spuntato senza Belotti e Maxi Lopez con i suoi chili in più. E poi ci ha raccontato di un pareggio tra Crotone e Palermo, buono, giusto per muovere la classifica delle ultime due. Ci ha raccontato tantissime cose, ma il meglio deve ancora venire. 20:45, Fiorentina-Roma, ma soprattutto tra 51 minuti esatti a San Siro, il derby d'Italia tra Inter e Juventus. Saluto subito Pierluigi Pardo, ciao Pier. Ciao. Noi ve lo racconteremo con un lungo prepartite, poi anche staremo in diretta per raccontarvi questo Inter-Juventus con il nostro Dario Ricci da San Siro. Dario. Bentrovati da San Siro, andiamo subito, Giovanni, se sei d'accordo, sulle formazioni ufficiali che sono tali da pochissimi istanti, poi commentiamo con il nostro ospite e amico Andrea Sorrentino, inviato di Repubblica. Tu, confermata la formazione dell'Inter, nerazzurri che schierano Handanovic in porta, difesa 4 D'Ambrosio, Miranda, Murillo, Santon, poi Medel e Joao Mario a supporto di Banega, Candreva ed Eder, unica punta Icardi. Le novità, e non poche, invece l'11 della Juventus: Buffon in porta, poi difesa a 3 con Benatia al posto di Barzagli, Bonucci e Chiellini, a centrocampo Lichtsteiner, Khedira, Pjanic, Asamoah però non previsto, si pensava a Lemina ed Alexandro, e in attacco la novità più grande, perché a far coppia con Dybala non c'è il pepita Higuain ma Mario Mandzukic. Andrea Sorrentino. Sì. Sembra quasi, Dario, che Allegri abbia ascoltato tutti quelli che per 3 giorni gli hanno detto che Pjanic deve giocare sempre e comunque da regista. L'impressione è proprio questa, però diciamo che anche il ballottaggio che si è creato in attacco e poi che è stato vinto da Mandzukic, che c'è forse ancora più sorprendente, no Andrea? Sì, a me comunque continua a sorprendere il fatto, era nelle cose, era quasi annunciata alla vigilia, a me continua a sorprendere il fatto che uno come Higuain non giochi dall'inizio Inter-Juventus. Evidentemente c'è una gestione atletica di cui bisogna tener conto, un turnover, insomma quello che è, però mister 90 milioni di cui si è parlato per tutta l'estate che non gioca dall'inizio Inter-Juventus, a me fa un po' strano. Poi magari entrerà nel secondo tempo, anzi sicuramente farà l'ultima mezz'ora ai suoi livelli e magari ci farà parlare di lui, però è un po' strano. Oggi credo lo scrivesse Andrea proprio Repubblica, i lussi di Allegri, cioè potersi permettere di discutere chi tenere fuori. Infatti, no, però ecco, concettualmente, no, io sarò anziano proprio nel Ma dopo aver visto le maglie verdi dell'Inter possiamo sopravvivere a tutto. Concettualmente il numero 9, cioè Higuain che non gioca Inter-Juve, mi fa strano, però vabbè, poi magari capiremo, e ci sono senz'altro dei motivi. Tra l'altro se Allegri non ha inserito Pjanic contro il Siviglia, secondo me aveva i suoi motivi, e quindi di solito un allenatore certe cose le vede meglio di noi, che tra l'altro neanche assistiamo agli allenamenti. State lì un attimo, perché voglio chiedere anche a Pierluigi Pardo cosa ne pensa di queste scelte. Allora, abbiamo dato le formazioni ufficiali e le sorprese, l'abbiamo detto, sono soprattutto nella Juventus. Chiedo anche a casa, 800 24 00 24, siamo qui fino alle 19, quindi chiamate per vivere con noi Inter Juventus, oppure 349 238 6666 per i vostri sms e WhatsApp. Pier? Beh, insomma, Allegri sta facendo proprio una gestione col misurino, quasi fosse una maratona, in qualche modo lo è una maratona questa stagione. Anche a me fa effetto, sono d'accordo con Andrea, che poi comunque le partite non sono tutte uguali. Questa è una partita che per mille motivi di carattere, magari neanche troppo dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista del blasone, dell'importanza, della suggestione e della pressione, è una partita per grandi giocatori, quindi è abbastanza sorprendente. Detto questo, Mandžukić ha le spalle larghe per poter fare una buona partita, in Champions non ha giocato lui, se non è un'eresia, è esattamente quel lusso al quale facevi riferimento, però sorprende anche me, sorprende, ed è un altro rischio che si prende in qualche modo Allegri, no? L'altro giorno gli è stata rinfacciata l'assenza di Pjanic nel match contro il Siviglia, oggi qualora le cose non dovessero andare bene sicuramente qualcuno gli direbbe come hai fatto a sedere in panchina. Sì, 90 miliardi. Domani ce ne sarebbe da parlare. Sì. Dario e Andrea, parlatemi invece un po' di De Boer, l'uomo sulla graticola. Ecco, Andrea voleva intervenire, dicevi, Andrea? No, sempre su Higuain, evidentemente non sta benissimo, ecco, io non credo che Allegri sia pazzo, quindi si vede che Higuain non è al meglio e magari lo scopriremo più avanti. No, senti, sì. Per paradosso, non è che oggi rischia più Allegri di De Boer, non certo in termini di panchina, ma per alcuni aspetti... Insomma, Allegri sì, potrebbe rischiare qualcosa, perché arriva qui da favoritissimo, lascia in panchina Higuain, se le cose non dovessero andare al meglio è chiaro che tornerebbe qualche voce ostile nei suoi confronti, però io lo considero il migliore allenatore italiano come gestione tattica, tecnica e anche psicologica del suo ambiente, quindi secondo me supererà anche questa fase come ha superato quella dell'anno scorso di questi tempi. Quanto a De Boer, ragazzi, De Boer l'ha detto anche ieri Moratti, l'abbiamo detto un po' tutti, è ingiudicabile. L'Inter si è autocondannata con una gestione scelleratissima a livello societario ad un precampionato che dura tuttora, questa è la sostanza delle cose. L'Inter è ancora in precampionato, sta facendo ancora gli esperimenti, ha un allenatore straniero che sta imparando a conoscere la squadra e i suoi giocatori, da alcuni pare non sia molto apprezzato, e l'esempio di Brozovic, escluso la vigilia, è uno dei tanti, ma non l'unico. C'è un po' di mare mosso nello spogliatoio e di solito queste cose non portano ad alcunché di buono. Però magari portano una reazione di nervi. Però ecco, potrebbe esserci di fronte al grande avversario una reazione nervosa che potrebbe magari, non so, magari se l'Inter riuscisse a entrare in partita subito, cosa che non le è successo mai finora, magari entra in partita subito, sblocca, cambiano tutti gli equilibri psicologici e tattici e può uscire fuori una partita diversa. Al momento il pronostico è chiusissimo. Ma sta rischiando o no, Andrea, sì, De Boer? Perché certo poi tu conosci certo meglio di rischia, tutti noi gli umori dell'ambiente interista, e cinesi, indonesiani o Massimo Moratti sono umori che spesso portano dei ribaltoni. Sì. No, in questo momento prevale la graniticità del dire siamo con l'allenatore, è arrivato da poco e quindi siamo tutti con lui, almeno la dirigenza. Vediamo le prossime partite, però le conosciamo bene queste situazioni, soprattutto all'Inter. Quest'Inter titolare ti convince? Cioè, perché questa è l'Inter A, sì, esempio con fuori Perisic. È l'unica Inter possibile. Io poi preferirei ovviamente Perisic a Eder, ma Perisic ha qualche problema fisico e quindi questa è la migliore Inter possibile secondo me. Voglio vedere come si sistemerà a centrocampo, non so se rimarranno Joao Mario e Medel con le tre mezze punte dietro Icardi o se Banega scalerà più indietro, perché ad esempio c'è una Samoa molto veloce che prende, va a correre nella posizione in mezzo sinistro e lì da quella parte bisognerà in qualche modo contrastarlo, forse con Medel, però poi ci vorrà un equilibrio dalla parte opposta con Banega. Vediamo un po' come sarà la sistemazione del centrocampo, però gli uomini sono questi. Allora Dario, io ho il traffico da lanciare, ringrazio te, ringrazio Andrea Sorrentino, ma resta lì perché ovviamente torniamo tra pochissimo a San Siro. 800 24 00 24, Pier, poi ti leggo alcuni dei messaggi che stanno arrivando. C'è chi dice: io vado ai pazzi quando sento che Allegri rischia qualcosa che sta stradominando il campionato, eppure Allegri è finito sotto processo per il pareggio col Siviglia e l'ha anche pagata, l'abbiamo visto, anche discretamente nervoso. 800 24 00 24, torniamo subito dopo il traffico. Si aspetta una partita più difficile o la Juve è favorita domani? Ma tanto che favorita lo dite sempre, quindi cioè non più un giorno meno cambia poco. Tutti convocati. Tutti convocati. Dobbiamo crescere tanto, lavorare tantissimo, perché siamo in ritardo, siamo indietro, ma perché è un allenatore che è arrivato da poco, non ha potuto fare né tante partite né soprattutto tanti allenamenti con questi ragazzi, perché non dimentichiamo che veniamo anche da un periodo in cui circa 13-14 giocatori erano con le proprie nazionali. Joao è uno di questi, penso abbia fatto 2 allenamenti con la squadra, e non è mai facile costruire qualcosa di importante senza avere il tempo a disposizione. Questo Ausilio, che in settimana ha provato in tutti i modi a tenere compatto l'ambiente intorno a Frank De Boer, che oggi rischia, al di là di qualsiasi considerazione, per Luigi Pardo. 800 24 00 24. Intanto, se gli amici da casa ci vogliono raccontare qual è il derby d'Italia della loro vita, quello che ricordano per un'amarezza, per una gioia, per una polemica, perché ad esempio oggi arbitra Tagliavento, arbitro che a tanti tifosi interisti ha fatto storcere il naso. C'è chi ricorda, Pier, che ieri anche Sarri ha tenuto Milik in panchina all'inizio. Sì, sì, ma io penso, guarda, una cosa, pensavo a varie cose in ordine sparso. La prima, io sono d'accordo con Ausilio, nel senso che, e spero che veramente lo staff nerazzurro sia in questo momento dalla parte dell'allenatore. Nel senso che mandar via l'allenatore in caso di sconfitta oggi, dopo 4 giornate, dopo che è arrivato veramente da 20 giorni, un allenatore che non parla l'italiano e che è stato preso a 15 giorni dall'inizio del campionato, mi sembrerebbe una follia. Mi sembrerebbe una follia, perché allora perché l'hai preso? Cioè che prendendo De Boer o De Boer ci fosse un rischio ulteriore, si scegliesse un allenatore al quale inevitabilmente si doveva dare un pochino di tempo in più per capire come funziona questa strana cosa che è il calcio in Italia e come funziona l'Inter, e per imparare la lingua. Beh, questo mi sembra inevitabile. Forse è stata una scelta sbagliata, forse, perché l'Inter è in una condizione di chi ha perso tempo negli ultimi anni, di chi non ha ottenuto risultati, di chi è sotto pressione, probabilmente dovrebbe cercare di accorciare le distanze. Sì, avrebbe dovuto probabilmente evitare Pierre il salto nel buio. Lo so, però, io però ti dico un paradosso. Il paradosso è che De Boer è in Italia da 40 giorni. Sì. E se avesse iniziato il ritiro il 7 luglio, vorrebbe dire che sarebbe praticamente arrivato quasi alla vigilia del debutto in campionato, cioè un abbozzo di gioco, pur con in mezzo 9-10 giorni di sosta di nazionali, pur con le partite che però ci sono anche quando vai in tournée, giri e fai 7-8 partite in 20 giorni negli Stati Uniti. Beh, un abbozzo di gioco, qualcosa si dovrebbe vedere. Sì, sì, no, ma io sono deluso, credo che anche lui sia deluso, e ho molti dubbi, così come francamente ce l'avevo pure quando è stato preso. Quindi non sto dicendo, però dico che è un controsenso se prendi un allenatore di prospettiva, se prendi un allenatore da medio-lungo periodo e lo fai fuori dopo 4 partite, è una follia. Vuol dire che hai sbagliato, perché nella vita si sbaglia, però insomma è un'incongruenza. Quindi questo è il punto di partenza. Per quanto riguarda l'aspetto tattico, sicuramente servirà che quei due, i tre giocatori alle spalle di Cardi diano una grande mano, nel senso che poi c'è il rischio veramente dell'inferiorità numerica, quindi Banega, ma penso che anche gli altri due dovranno sacrificarsi in fase di non possesso. Icardi sarà l'unico che sarà completamente svincolato da compiti di copertura. E per quanto riguarda Higuaín, è un azzardo. A me sembra che ci sia un eccesso di critica sulla Juve di Allegri e sulla partita dell'altro giorno, premesso che secondo me Allegri deve pensare magari più alla difesa a 4 in certe circostanze. Ed è altrettanto vero, secondo me, che comunque qualcosa l'ha sbagliato pure, perché probabilmente Pjanic in una partita come quella col Siviglia poteva essere utile prima, anche se manca la controprova. Però mi sembra che i numeri della stagione della Juve siano assolutamente positivi, le prospettive siano straordinarie. Allegri in questi anni ha dimostrato tante cose anche a livello internazionale di crescita, e quindi sì, ma lì il dubbio è che Allegri sia sempre percepito un po' come un corpo estraneo dal mondo Juventus. Tutte le volte che c'è una difficoltà, io non capisco perché, faccio il notista, faccio il cronista, tutte le volte che c'è un pizzico di difficoltà, vera o però presunta, sai, perché in questo caso credo presunta, un anno fa vera. Ancelotti, no? Sì, sì, evidentemente ci sono allenatori destinati a questo. A proposito di ex allenatori dell'Inter, Piero, oggi Mazzarri ha battuto Mourinho 3-1, Watford, Manchester United, e vittoria strameritata, se possiamo dirlo. Poi vi facciamo sentire Mourinho, che se l'è presa sai con chi? Posso? Con chi? Con l'arbitro. Beh, dimmi, no, Pier, poi torniamo a San Siro. No, ti dico che sono contento per Mazzarri, nel senso che io credo che al di là soprattutto di comunicazione che secondo me Mazzarri ha avuto, forse ancora, però poi alla fine è passato per alcuni si può dire una pippa, con uno scarso, e questo fa ridere perché Mazzarri ha avuto una carriera fino a questo momento di altissimo livello, di altissimo profilo, di altissima percentuale di successo. Gli è mancato il salto di quel caso, gli è mancato vincere, chiaramente vincere, mi riferisco ovviamente ai campionati. Sì, al secondo posto con il Napoli, che vale una medaglia. Anche la Coppa Italia e all'Inter, lo dimostrano anche le cronache di queste ultime settimane, dopo di lui non c'è stato nessun miglioramento. Mancini ha avuto una campagna acquisti migliore sicuramente di quella che era stata data a Mazzarri, e non ha migliorato i risultati. Aspetta che vi faccio sentire Candreva dei microfoni di Premium Sport. Vai. Prepartita di Inter Juve. Dopo un inizio di campionato difficile, dove non abbiamo fatto una bella figura in Europa League, penso che viene nel momento giusto. È una partita importante dove le motivazioni sono altissime, dove il nostro pubblico aspetta come noi questa partita importante. Niente, daremo tutto. Motivazione in più. Questo Candreva, intanto le telecamere inquadrano Mister Zhang, Bolingbrock, Toir e Zanetti a bordo campo. Oggi c'è tutto lo stato maggiore dell'Inter. Dario Ricci, San Siro. Beh, vi faccio un flash d'ambiente per farvi sentire un po' i rumori di San Siro. È il San Siro delle grandi occasioni, caro Giovanni, come sappiamo bene, 76.000 spettatori, popolo nerazzurro, anche quello juventino che ha risposto al richiamo di questo big match. Manca davvero poco, si stanno gremendo gli spalti, insomma tutto pronto per quello che speriamo sia un grande spettacolo, sarà un grande spettacolo. Sì, certamente, poi c'è anche l'aspettativa per questa coreografia disegnata dai bambini, che è uno degli aspetti di colore di questo Inter Juventus. Dario, torniamo tra poco da te, se riesci a coinvolgere anche un ospite per cercare di ragionare di più anche sulle scelte di Allegri, sulle scelte della Juventus. Pier, tornando a De Boer, dopo questo Inter-Juve, l'Inter gioca come tutte quelle che fanno le coppe ogni tre giorni, c'è Empoli-Bologna, c'è lo Sparta-Praga e poi c'è Roma-Inter. L'impressione per tanti è che il 2 ottobre sia un po' la deadline per tirare un primo bilancio. Io, dei nomi che ho letto, Prandelli, Garcia e Capello, devo dirti che per un'eventuale successione di De Boer quello che mi convince di più è quello di Prandelli. Ma Prandelli è un altro che è un po' come il discorso che facevamo prima su Mazzarri, è un altro che ha pagato alla fine due partite e per molti adesso ha l'immagine dell'allenatore medio o addirittura mediocre, e non è così, perché la carriera di Prandelli è una carriera importante, una carriera di buoni risultati. Poi non è che poi vince uno, ragazzi, vince uno e poi quasi sempre vince la squadra che è più forte, perché è più forte, quindi bisogna saper leggere le situazioni. Palletti l'anno scorso a Roma ha fatto un grande lavoro nella seconda parte della stagione, Prandelli è un allenatore di alto livello che negli ultimi anni ha fatto fatica a trovare panchina, perché è uscito abbastanza male, molto male, da quell'esperienza lì con la nazionale. Probabilmente il Galatasaray non era la cosa giusta da fare in quel momento, ma se cerchiamo di discutere Prandelli, francamente facciamo fatica. Secondo me il migliore, per come è messa l'Inter in questo momento, rimane Capello, ammesso che Capello ci voglia andare, c'è anche la voce che abbia rifiutato già a suo tempo, perché Capello secondo me è il più grande semplificatore che io conosca, cioè è un allenatore che secondo me capace di far funzionare quello che ha. Esatto, è capace difetti secondo me compresi. Di arrivare lì e di dare una sottata dal punto di vista anche societario, dal punto di vista del rapporto con i giocatori, dal punto di vista ambientale, fortissima. Per un discorso di prospettiva, invece, per un discorso più di medio periodo, sicuramente Prandelli è un'ottima scelta. Ma ripeto, io credo che loro abbiano fatto una scelta di medio-lungo periodo, perché non prendi De Boer per fare bene 2 mesi o 3 mesi o 6 mesi, prendi De Boer perché ti piace com'è. No, però Pier, tra non fare benissimo e fare malissimo, cosa che oggettivamente sta facendo, poi c'è di mezzo che l'Inter è legata anche in questa stagione ai risultati, altro che progetto. No, l'Inter 8, è partita, aspetta, 800-24-00-24, Pasquale da Monza, Pasquale. Sì, buongiorno. Eccoci. Io volevo dire che io sono fiducioso sull'Inter. Stasera vinciamo. E se tutto va bene a Natale siamo primi. Natale primi, sì. Secondo me, poi sai com'è, la Juve è forte, però io sono fiducioso. No, ma mi incuriosisce la fiducia, al di là della partita di questa sera, la fiducia primi che a Natale questa Mario, squadra poi possa essere prima. Vi spiego, sì. Ho sentito l'intervista del vicepresidente del gruppo cinese, no? Sì. Se la metà di quello che ha detto è vero, quest'anno dovremmo vincere lo scudetto. Sì, ma ci sono anche gli altri, Pasquale. E poi, per carità, i soldi non fanno la felicità, anche se certamente aiutano, Pier. Anche se certamente aiutano. Ma di soldi l'Inter ne ha spesi tanti e qualche problema in questo avvio di stagione ce l'ha. Abbiamo la pausa, 800-24-00-24. Poi torniamo anche a San Siro da Dario Ricci. Ci sono le squadre in campo per il riscaldamento, mancano 29 minuti e mezzo a Inter-Juventus, torniamo subito. Dovete avere un po' di pazienza anche voi, allo stesso tempo sappiamo che in Italia tutti ci aspettano, tutti sono lì pronti, con l'Inter in particolare, ad aggredire le situazioni di difficoltà. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Convocati. Poco meno di 25 minuti a Inter Juventus. Intanto Francesco Molinaro ha vinto l'Open d'Italia 2016. Stiamo parlando di golf. Ha battuto l'inglese Danny Willett. Per Molinari è la seconda vittoria all'Open d'Italia. Luca da Perugia, ciao. Ciao, buonasera. Però ti chiedo un attimo di pazienza. Torniamo a San Siro da Dario Ricci. Ciao Dario. Sì, ben ritrovati. Giovanni, riparto dal tema tifosi perché mancano appunto meno di 25 punti al calcio d'inizio. Come stiamo vedendo con Max Nerozzi della Stampa, il nostro ospite, ci sono ancora lunghe file ai tornelli, per esempio qua al cancello 5 che è proprio sotto di noi, qui alla tribuna stampa guardando verso l'esterno dello stadio. Insomma, controlli accurati ma evidentemente procedono anche a rilento, infatti ci sono ancora ampi spazi vuoti nello stadio. Ma torniamo su quello che vedremo in campo. Max Nerozzi della Stampa. Max, beh, tanto complimenti perché stamattina sei stato uno dei pochi a scrivere Mandžukić titolare, ci hai azzeccato, chiaramente non è solo fortuna. Come valuti questa scelta da parte di Allegri? Che è un misto di diplomazia e strategia. Diplomazia perché sarebbe stata la terza panchina per Mandžukić filata, strategia perché Allegri si aspetta una partita fisica, quindi usa prima il carro armato e poi uno invece che a mandare in profondità come Higuaín. Ma ti faccio la domanda che farebbe arrabbiare Allegri, e cioè non è che Max comunque è un po' permeabile alla pressione e deve imparare a gestirsi una rosa così lussuosa? Sì, potrebbe essere, se non fosse che l'anno scorso, se ti ricordi, fece la stessa cosa con Dybala, con tutti noi che gridavamo Dybala in campo. Poi Dybala si è rivelato un fenomeno, però lui l'ha saputo dosare. Penso che stavolta il compito sia molto più dura perché ha un titolare che era Mandžukić, ha un titolarissimo che è Higuaín, però stagione lunga, c'è la Champions, forse è la cosa più difficile per Allegri quest'anno. Voglio fare una domanda a tutti e tre, partendo da Pierluigi Pardo, ed è questa. Pjanic regista significa che Allegri, dopo aver visto Lemina ad alto livello contro il Siviglia, valuta che forse è il caso di riservare l'esperimento di Lemina a un livello inferiore di difficoltà di partite. Pierluigi, poi Max, poi Dario. Ma no, mi sembra stia facendo una rotazione, cioè la notizia sorprendente era l'assenza di Pjanic contro il Siviglia, così come è sorprendente l'assenza di Higuain stasera, dal primo minuto. Mi sembra stia facendo una rotazione molto, diciamo, forse un po' con la calcolatrice, un po' col contadini, no? E poi chiaramente lui, giocatore, li vede tutti i giorni, è chiaro che ha una grande rosa, ha un'enorme rosa, ha cominciato con un approccio molto legato al turnover, l'ha fatto fin dall'inizio, un po' anche perché alcuni giocatori erano oggettivamente in ritardo, sia Higuain che Pjanic avevano avuto l'estate un pochino più complessa e quindi erano un po' di rincorsa, e penso che la situazione si attesterà, però mi sembra che l'approccio sia quello di fare molta turnazione degli uomini. E in mezzo al campo Pjanic è un giocatore importantissimo e l'altro giorno ha fatto scalpore la sua assenza, così come fa scalpore l'assenza di Higuain oggi, però non credo sia una bocciatura nei confronti di Lemina. Lemina è uno dei migliori che ha in quel ruolo ed è uno che giocherà spesso in attesa di un eventuale ulteriore arrivo a gennaio e ovviamente del recupero di Castillo. Max, Dario. Io penso che l'inserimento di Pjanic, cioè uno che fa regia e così non costringerà Dybala a essere risucchiato a metà campo, e Mandzukic che fa risponde, sia il tentativo di Allegri in questa partita di fornire la polvere da sparo a Dybala, che è l'unico che non ha segnato e di cui c'è un gran bisogno. Sì, mi sembra lo schieramento più ragionevole, che fa ordine al centrocampo, perché ci sono due gladiatori, no? Che dire da Samoa, che va sfruttato soprattutto in questo momento, prima della Coppa d'Africa, insomma questo è il momento che se è in palla può dar qualcosa, il lancio di Pjanic, e chissà che proprio, ecco, non sia Dybala a poter approfittare degli spazi che dovrebbe aprire Mandzukic, proprio perché Dybala può inserirsi bene col passo rapido che ha, addirittura veloce, tra Murillo e Miranda. Sì, viste anche le difficoltà della coppia centrale oggi di difesa dell'Inter in questo inizio di stagione. Grazie a tutti e due. Allora, Luca da Perugia. Luca. Ciao, buonasera a tutti. Eccoci. Grazie per la pazienza. Io soltanto, guarda, sarò molto sintetico, soltanto una considerazione proprio così vista da tifosi interista di vecchia data. Innanzitutto, vedere l'Inter con quelle magliette per me è un colpo al cuore. Sì, le magliette verdi. Sì, ma gli verdi formato, non so se si può dire Sprite, sì, è una cosa oscena. Per me è almeno tutti. Oscena. Lo so, e quello comunque sia un dato di fatto. Secondo, l'Inter purtroppo ultimamente, da quando Moratti non è più presidente e continua a dire che la proprietà italiana è fondamentale per una squadra di club, è diventato un calderone. Negli ultimi anni è diventato veramente un calderone. Con questo vi saluto, buon lavoro. Però io credo, Luca, non so, sì, Pier, come la pensi, che non sia neanche questione di proprietà. La proprietà ci segna il calcio europeo, il calcio inglese può anche stare a migliaia di chilometri di distanza, però poi serve una cinghia di trasmissione, serve qualcuno che sia vicino alla società, che conosca bene l'ambiente, cosa che all'Inter non c'è in questo momento ed è una babele assoluta. Serve un Beghiristein, o serve un Barotto, un Nedved, sicuramente l'Inter, ma insomma stanno faticando tutte, ragazzi, dietro la Juve, dietro lo strapotere della Juve in questi anni, in Italia stanno faticando tutte, la Roma e il Napoli hanno fatto cose importanti, soprattutto paragonate alla loro storia, stanno vivendo stagioni nettamente sopra il par, per usare, meglio sotto il par, per usare un termine golfistico per celebrare la vittoria di Chicco, però questo è certamente un periodo complicato per tutte le rivali della Juve, e la fretta e la pressione ti portano anche a fare degli errori, sicuramente. L'estate dell'Inter, l'abbiamo detto mille volte, l'abbiamo detto mentre succedeva, era un'estate strana, era un'estate complicata ed era un'estate piena zeppa di errori, perché c'era un equivoco di fondo legato allo scarso feeling che esisteva con Mancini, e alla difficoltà che Mancini sta avendo in quel momento, che è una difficoltà, se vuoi, anche proprio di motivazioni, di entusiasmo, di energie. E quindi poi si è arrivati a una scelta fatta tardiva, sicuramente tardiva, perché ha avuto poco tempo. Sì, e forse anche sbagliata al di là dei tempi. E forse anche sbagliata. Qualche dubbio può venire. C'è un amico che insomma scrive e ricorda la faccia quasi immota di De Boer giovedì sera, mentre l'Inter gli stava franando sotto gli occhi contro gli israeliani. E per carità, io sono anche convinto che non ci sia ragionamento su seconde e terze linee contro una squadra, contro l'Aboel Beersheva. In casa tu puoi vincere se sei l'Inter, questa Inter anche con le riserve, e De Boer era lì fermo in panchina. Sì, era fermo in panchina. Che è un'immagine, che è una brutta immagine, per chi. Ma sì, poi diciamo che l'aspetto dell'icona, no? Il significato che noi attribuiamo a quello che vediamo si lega molto ai risultati. E quindi, insomma, De Boer certamente ha questo modo di comunicare, che in questo momento è inefficace, probabilmente sarà anche inefficiente, ma è questo. E dà un'accezione negativa perché l'Inter va male. Se l'avessimo visto con 12 punti dopo 4 giornate, probabilmente avremmo pensato cose diverse. Mi sembra che il gioco non ci sia, su questo non ci sono grandi discussioni. I giocatori sono tanti, il talento non è poco, però va assemblato. Ci sono dei problemi di fondo, secondo me, per esempio sui terzini. L'Inter dovrebbe avere qualcosa di più. Dietro è una squadra media. Dalla cintola in su è una squadra molto buona, secondo me, o comunque buona, con tanto materiale e tanto potenziale che magari non è semplicissimo da mettere insieme e da aggregare. Quindi è un lavoro sicuramente non facile. In più, l'elemento tempo in termini di pazienza dei tifosi è pochissimo, perché i tifosi sono giustamente... Sì, è un alibi che si sta consumando. Sì, no, però voglio dirti... Anche io, quello del fatto di essere arrivati il 10 agosto io è un alibi che si sta consumando. Se oggi l'Inter perde 3-0, io non lo caccio. 3 De Boer. Perché vuol dire che hai sbagliato a prendere. Sì, ma anche perché mercoledì c'è la trasferta ad Empoli. Io credo che oggi non succede niente. Poi, per carità, la Serie A, il calcio, l'Inter ci hanno abituato a tutto. Sono convinto che la deadline sia il 2 ottobre. Però già che se ne parli, io credo che implicitamente riconosca un errore di fondo, oltre che una grandissima difficoltà. 800-24-00-24, abbiamo il traffico, Pier. Poi parliamo anche di un attimo di Fiorentina-Roma, che è l'altra partita che manca, quella delle 20.45, partita interessantissima, un po' cannibalizzata da Inter-Juventus. Abbiamo anche ausilio sul caso Brozovic e Marotta sulle parole di Bonucci, dopo il traffico. Quest'anno sarà molto più difficile anche vincere lo scudetto, perché ci saranno squadre agguerrite e perché non è detto, perché la Juventus sulla carta è più forte, debba per forza vincere tutte le partite. Diciamo che è impensabile vincere 52 partite di seguito. Tutti convocati. Tutti convocati. La Roma è molto Totti per quello che rappresenta, e quando ho parlato di Federico Chiesa e Federico Bernardeschi è quello che io credo che ogni squadra in ogni paese deve avere. Deve aversi bandiere che conoscono bene il valore della sua squadra. A prescindere, si usa Francesco per spaccare la Roma. Francesco è un giocatore, più che dire che è un genio, che bisogna dire. Poi secondo me ha un'età, va gestito in una certa maniera, e soprattutto lui deve darmi mano a far crescere altri calciatori importanti come lui. Lui deve diffondere questo modo di pensare di squadra. Insomma, è incredibile che per preparare Fiorentina-Roma tutto il mondo Roma ruoti ancora attorno alle questioni di Totti, Pier. Saluto anche Ciccio Graziani, ciao Ciccio. Eccomi qua, ciao ragazzi. Non so come la pensate voi, Ciccio. No, ma mi sembra che Spalletti sia stato sempre molto chiaro. Totti è un grandissimo patrimonio ancora oggi del nostro calcio, bisognerebbe clonarlo sotto certi aspetti, però poi Spalletti, se ogni volta che c'è una conferenza stampa gli chiedono se gioca Totti, se gioca dall'inizio, se gioca a metà partita, se entra 10 minuti, alla fine il allenatore si spazientisce, perché dice va bene tutto, ma parliamo della Roma, parliamo delle potenzialità che Totti può dare a questa Roma, sia sul campo che fuori campo. Ecco, questo è quello che intendeva molto probabilmente Luciano, perché all'ultimo, a forza di rispondere sempre alle stesse domande, uno si stressa. Diventa... Ma c'è un ambiente, Pier, a Roma che lavora contro la Roma? Ma no, perché è questo che dice Spalletti, giornalisti che lavorano contro la Roma, un ambiente che è contro la Roma. In qualche caso c'è stata un'inversione del concetto di fine e mezzo, no? Nella città di Machiavelli, diciamo. Quindi, nel senso che poi alla fine Totti deve essere un mezzo, il più importante, il più storico, il più leggendario, ma è un mezzo, non è un fine. Il fine ultimo di un tifoso della Roma è che la Roma vinca il campionato, non che Totti batte il record di Piola, tanto per essere molto chiari, no? E questo concetto, in realtà Spalletti ha ragione, è che alcune volte, secondo me, si è fatto prendere da un eccesso di enfasi su questo argomento, dando la sensazione che fosse in qualche modo condizionato dal tema, cioè... no? Sì, prego, prego Pier. Questo è l'unico punto. Che succede? Ah, c'è qualche problema adesso, magari poi recuperiamo, credo sia Ciccio Graziani che entra qualcosa, però Pier vai pure avanti. Io sono qui ragazzi. Allora c'è... No, ma, ripeto, secondo me allora... Dai, ci sono gli alieni nelle linee telefoniche. Salutiamo gli alieni. No, secondo me il punto fondamentale è questo, che Spalletti ha ragione, in teoria ha perfettamente ragione e ha ottenuto grandi risultati. La Roma... le ultime 20 partite fra l'anno scorso e quest'anno in campionato ha fatto 16 vittorie e 4 pareggi, cioè stiamo parlando di numeri impressionanti, e secondo me la sua battaglia culturale è giustissima, appunto, cioè che l'obiettivo della Roma non sia il record di Totti, ma sia ottenere dei risultati per la squadra, e che in alcune circostanze questi risultati passano anche magari per una panchina di Francesco Totti, è indiscutibile, però poi sono successe due cose: da un lato c'è stata appunto una sorta di ossessione in certi momenti, cioè mi sembra... Allora, questa è una gag, che cosa è questa? La sveglia. In certi momenti mi sembra che nelle conferenze stampa Spalletti abbia un po' esagerato. Mi ricordo sempre quella famosa conferenza stampa nella quale faceva riferimento al fatto che nel derby pareggiato 2-2 i giornalisti avevano sottolineato i meriti di Totti, ma magari la Roma è andata sotto 2-0 perché Totti non aveva difeso, ecco. Oppure quando aveva dato sempre nella stessa conferenza stampa i dati sulla sua tenuta fisica in allenamento, sì. Ecco, cioè questa roba qui io non l'ho capito. No, per il resto, e sulla bontà del lavoro di Spalletti, io sono perfettamente d'accordo e perfettamente allineato. Penso che lui abbia ragione e penso che ogni vero tifoso della Roma, di fondo, razionalmente, al di là dell'amore che ha nei confronti di Totti, deve rendersi conto che Totti è uno strumento, che poi viene amato tantissimo, ma uno strumento per il bene della squadra. Sì, e ieri insomma Spalletti l'ha fatto capire. Prima di chiudere con Ciccio Graziani, credi che la Roma sia uscita da quel tunnel in cui si infilano tutte le squadre che escono in un preliminare di Champions? Beh, stasera possiamo avere già qualche risposta, perché incontra una Fiorentina che vuole vincere la partita, giocherà in casa, sfrutterà il fattore campo, il pubblico che gli darà sicuramente una mano, e quindi questa sera dobbiamo vedere una Roma che, come si dice, regga la botta, e soprattutto se è migliorata anche dal punto di vista atletico, perché le squadre come la Roma, come altre squadre importanti che vanno in giro per il mondo, non fanno più le preparazioni come devono essere fatte. Poi all'inizio ti accorgi che ci sono squadre che invece di levatura tecnica più bassa, come per esempio il Cagliari o il Pescara o qualche altra squadra, che in questo momento si vede che fisicamente vanno al doppio dei grandi. E quindi, ecco, se la Roma è cresciuta anche fisicamente e atleticamente, io ho l'impressione che stasera avremo delle risposte importanti. E anche alla luce di quello che abbiamo visto ieri dal Napoli. Grazie Ciccio Graziani. Grazie a voi, un abbraccio a tutti. Grazie a Ciccio, buon Fiorentina Roma anche a te. Grazie. Pier. Ciao amico mio. A domani. A domani. Sì, partita che seguiremo dopo il GR del 18 con Dario Ricci. Prima però del GR vi faccio sentire ausilio sul caso Brozovic, che ha agitato la vigilia in casa Inter. Brozovic escluso per, questo ha fatto sapere il club, comportamenti poco professionali. Ausilio pochi minuti fa. Quanto tempo ci vorrà per rivedere Brozovic in una lista di formazione? No, ma questo adesso all'Inter, come penso in altri club, ci sono delle regole e dei regolamenti che in questo caso sono stati semplicemente applicati e sono stati fatti rispettare, tutto qui. Poi ci sarà tempo anche poi per la rieducazione, come si deve fare in questi casi. La rieducazione di Brozovic. Vi faccio sentire anche Marotta su Bonucci, che se l'era presa con i tifosi dopo la partita con Siviglia. Ha ragione Bonucci a dire che le critiche anche dei tifosi sono state eccessive? Che abbia pesato no, perché la Juventus è abituata come grande squadra a subire anche queste critiche, è normale che sia, ma del resto non possiamo neanche inanellare continue vittorie. Certamente l'esternazione di Bonucci è un'esternazione sentita da un giocatore importante, per cui è giusto che l'abbia fatta ed è giusto anche rispettarla. Materazzi e Milito premiati sul Prato di San Siro, mancano 5 minuti a Inter-Juventus, le formazioni Inter, Andanovic, D'Ambrosio, Miranda, Murillo e Santon, Joao Mario Medel, poi Candreva, Banega ed Er con Icardi, punta unica. Juventus 3-5-2, Buffon, Benatia, Bonucci, Chiellini, Lichtsteiner, Khedira, Piani, Çalhanoğlu, Alessandro e davanti Mandzukic e Dybala. 800-24-0024. Io sono qui per viverla insieme a voi dopo il GR 18, diretta da San Siro, Fiume con Dario Ricci. L'ultima stagione di Francesco, lo dice il campo, se sarà o se non sarà. Voi mi volete attribuire una responsabilità che io non voglio e che non ho, quella di quando smetterà Francesco. Tutti convocati. Il segnale orario vi è offerto da... Il 56esimo Salone Nautico vi aspetta a Genova dal 20 al 25 settembre. Dal lunedì 26 settembre, dalle 9 alle 10 e mezza, torna Mix 24, con i faccia a faccia, le inchieste, i gialli della storia, i dentro la notizia di Mario Secchi, i salamini di Pietrangelo Buttafuoco e poi i venerdì speciali con Alessandra Fiori, Alessandra Cravetto e la musica di Franco Schipani. Mix 24, di Giovanni Minoli, dal lunedì al venerdì alle 9, su Radio 24. Allora, sono tutti convocati, quindi... siamo tutti a disposizione. Tutti convocati. Tutti convocati anche voi. 800 24 00 24 per vivere insieme. Inter-Juventus si gioca da 4 minuti e 30 secondi e Inter-Juventus ha già detto qualcosa. Ad esempio, dopo 40 secondi c'è anche già stato il primo caso da Moviola, un lancio per Khedira a tu per tu con Handanovic, fermato in posizione di fuorigioco, ma il replay ha mostrato che Khedira era partito perfettamente in linea con i due centrali dell'Inter, non impeccabili in questa occasione. Poi Khedira non era stato a sua volta impeccabile nel controllo di palla, c'era stata l'uscita di Handanovic, ma gioco fermo per fuorigioco, ripeto, fuorigioco che non c'era, ritmo alto, sin qui nessuna occasione, a parte quella virtuale che vi ho raccontato, ma Inter e Juventus stanno facendo sfoggio di muscoli a centrocampo, predominio territoriale fin qui della squadra di Allegri che sta per battere un calcio di punizione. Siamo nei pressi dell'area di rigore, andiamo per 30 secondi a San Siro. Dario? No, recuperiamo il collegamento, c'è Pjanic sul pallone con Dybala, siamo nei pressi del vertice sinistro dell'area di rigore dell'Inter, c'è assembramento all'interno dell'area stessa, c'è Tagliavento che ha messo a distanza Banega che è l'unico uomo della barriera nerazzurra posizionato da Handanovic. Parte il traversone di Dybala sul secondo palo, libera la difesa dell'Inter che poi prova a distendersi in contropiede. In attesa di tornare a San Siro dal nostro Dario Ricci, apriamo una parentesi legata ai motori al Gran Premio di Singapore. Saluto Umberto Zappelloni, vice direttore della Gazzetta dello Sport. Ciao direttore. Ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti. Navighiamo tra Formula 1 e tutti gli altri temi e il derby d'Italia di San Siro tra Inter e Juventus. Beh, intanto il Gran Premio di Singapore che ha detto che Rosberg è tornato dalle ferie carico. Terza vittoria su 3, 8 punti di vantaggio del Mondiale su Hamilton che oggi ha limitato i danni arrivando terzo, in mezzo c'è stato Ricciardo e c'è stato soprattutto forse il Gran Premio più interessante della stagione. Sì, se per un paragone calcistico possiamo dire che è stato uno 0-0, ma di quelli che ti divertono, sì. Perché i sorpassi se ne sono visti pochi, così come, cioè, i gol non ce ne sono stati, ma è stato un Gran Premio divertente, perché fino alla fine c'è stata la possibilità di Ricciardo di cercare di andare ad attaccare Rosberg, c'è stato dietro Kimi che avrebbe potuto cercare di stare davanti a Hamilton, che aveva subito un bel sorpasso dal ferrarista a metà gara più o meno, c'è stata una grandissima rimonta di Vettel dall'ultima posizione fino alla quinta, quindi è stato tutto sommato un Gran Premio divertente, non scontato dopo la prima curva, come spesso ci è capitato di vedere quest'anno. Certo, sono mancati i sorpassi, che poi dovrebbero essere il sale della Formula 1. Sì, però non manca una considerazione da fare sui rapporti di forza tra Rosberg ed Hamilton. Una volta può capitare, due viene il sospetto, tre fa ben più di un indizio, cioè che si siano ribaltati. Sono tre Gran Premi, il terzo Gran Premio di fila, come dicevi tu, tra l'altro 8 vittorie, 8 punti, e con 8 vittorie in stagione nessuno ha mai perso il Mondiale. Mi sembra che lo abbia ripreso in mano Rosberg, che è tornato dopo le ferie, ha vinto a Spa, ha vinto a Monza, due circuiti completamente diversi, ha vinto a Singapore, tre piste dove non aveva mai vinto in vita sua, quindi è riuscito a svoltare un campionato che sembrava saldamente nelle mani di Hamilton, che si è perso un po' durante queste vacanze, ha sbagliato anche in questo Gran Premio, ha sbagliato la qualificazione ieri, ha sbagliato il giro decisivo e oggi in gara ha commesso qualche errore in più del suo compagno di squadra, che invece è stato perfetto. Quindi la situazione rischia di ribaltarsi per Hamilton, però almeno devo dirti che ci lascerà con un'incognita da qui alla fine di un campionato che invece è saldamente in mano della Mercedes, che a Singapore ha sofferto, ma è una pista dove negli ultimi anni ha sempre sofferto. Il problema è che oggi non è stata la Ferrari a poter dare filo da torcere, ma c'è stata una Red Bull che con una strategia diversa ha cercato, con Ricciardo che ha annichilito il suo giovane compagno di squadra Verstappen, di mettere un po' di paura a Rosberg. Sì, intanto 9 minuti a San Siro, ancora 0-0 tra Inter e Juventus, e tra poco torniamo a San Siro dal nostro Dario Ricci. C'è chi ci chiede degli errori del box Ferrari. Allora, adesso parliamo della Ferrari, prima però vi faccio sentire Vettel, tra l'altro in italiano alla fine del Gran Premio, ai microfoni di Sky. Io credo in questa Ferrari, ma credo molto in questa squadra. Penso il futuro è meglio per noi, ma adesso, oggi la gara in partenza P22 e poi dopo la gara P5 con motore nuovo è molto bene, piccolo sorriso, e adesso andiamo avanti. Ci vediamo in... dove andiamo? Malesia. Ok. Consolante che non lo sappia nemmeno Vettel. Noi invece andiamo un istante a San Siro, c'è stata la prima occasione per l'Inter. Dario. Sì, decimo di gioco, Giovanni ancora sullo 0-0, pochi istanti fa la punizione dalla tre quarti destra di Banega, il colpo di testa di Cardi che sfila dentro l'area piccola fin sul secondo palo, ma non trova nessun nerazzurro pronto alla deviazione. Juventus che in questi primi minuti si sta facendo carico della responsabilità della manovra, attenta però l'Inter a sporcare le linee di passaggio dei bianconeri. Quando si crea un minimo di superiorità numerica è sempre solo grazie a Dybala, finora, che in un paio di spunti ha creato effettivamente qualche problema alla difesa nerazzurra. Undicesimo di gioco, finora grandi occasioni però non se ne sono viste, ancora 0-0 a San Siro tra Inter e Juventus. Sì, Inter che la sta un po' incartando su. Tornando invece ai motori, Umberto Zappelloni, come dobbiamo valutare il bicchiere della Ferrari in questo fine settimana a Singapore? Mezzo vuoto o mezzo pieno? Ma forse è stata una delle Ferrari migliori della stagione. Peccato che Vettel partisse così da lontano e che ci sia stato un errorino, secondo me, nella strategia su Kimi, perché se Kimi non fosse stato fatto rientrare per il terzo pit stop, probabilmente avrebbe potuto finire sul podio davanti a Hamilton, il quale aveva una trentina di secondi di vantaggio. Certo, Hamilton con gomme fresche gli sarebbe arrivato molto sotto, ma su una pista come quella di Singapore è veramente molto molto difficile superare, e sappiamo quanto sia bravo Kimi a gestire comunque anche gomme molto usurate. Ma perché la Ferrari, lo scrivono tanti amici da casa, 349-238-6666, non ci azzecca mai, o quasi, con la strategia? Ha giocato conservativa, non ha voluto rischiare, non considerando che anche rischiando, se ti fosse andata male saresti arrivato quarto, come poi in realtà sei arrivato quarto, perché tra l'altro al quinto posto c'era Vettel, quindi è stato un errore strano voler andare a marcare Hamilton, che sinceramente si poteva cercare di rischiare per restare sul podio, che non è che avrebbe cambiato la vita e la stagione della Ferrari, però sarebbe stata una piccola consolazione in più e un favore a Rosberg. Ferrari che comunque nelle ultime sei gare ha preso un solo podio con Vettel a Monza, un solo podio nelle ultime sei gare, e questo al di là dei segnali di oggi dà un po' la dimensione e conferma qual è il tenore della stagione, di questa stagione per la scuderia di Maranello. Grazie direttore. Grazie a voi, buon interview. Grazie a Umberto Zappelloni. 800 24 00 24, vi aspetto, 12 minuti 15 sul cronometro a San Siro, 0-0 il traffico, poi le vostre telefonate e San Siro con il nostro Dario Ricci. Tutti convocati. Ma lo stadio che devono fare? Scusa, la partita deve giocare. Mica ce l'ho andato a fare la spesa allo stadio io. Tutti convocati. Tutti convocati. Se ne è dato il primo quarto d'ora di Inter Juventus 0-0. Salvatore da Milano. Salvatore. Ciao a tutti. Aspetta che andiamo a San Siro che ci facciamo raccontare cosa è successo mentre c'era il traffico dal nostro Dario Ricci. Dario. Eccoci qua, pochi istanti fa un destro di Medel dai 22 metri alla fine di un'azione che l'Inter ha condotto con buona padronanza del palleggio e lucidità, la palla alta sulla traversa, un Inter che continua a occupare bene gli spazi, si fa più propositiva in avanti grazie al buon avvio di Banega. Tra le file juventine da segnalare la personalità di Benatia che supporta Bonucci nella fase di impostazione, direi finora anche molto bene. Sta cercando lo spazio giusto João Mario, adesso avrà una bella apertura per Santon, aspettiamo che il portoghese entri in partita. Sedicesimo di gioco, ancora 0-0 tra Inter e Juventus a San Siro. Sì, il dato statistico di questo primo quarto d'ora è un possesso palla leggermente superiore della Juventus, 53-47%, e questo è un dato importante perché fin qui l'Inter di De Boer come caratteristica evidente aveva avuto possesso palla spesso superiore al 60%. Inter che è stata molto poco nella metà campo della Juventus, ma ha anche rischiato pochissimo fin qui. Juventus che ha calciato un paio di corner, l'occasione dopo 40 secondi ve l'abbiamo raccontata con Khedira fermato per un fuorigioco che non c'era, però gara fin qui assolutamente equilibrata. Salvatore, prego. No, nulla, volevo fare un intervento sulla partita perché sicuramente da tifoso juventino vedo la mia squadra favorita, ma in realtà vedo una partita molto, molto ostica per il semplice fatto che l'Inter in queste situazioni diventa pericolosa, proprio perché ha subito un sacco di sconfitte o comunque un periodo nero e adesso può avere la rivalsa e quindi rilanciare un po' il campionato. Niente, volevo un attimo questa chiave anche di lettura. Se, anche se, Salvatore, mi sembra che sul campo le differenze ci siano. E mi pare di aver capito, leggo tra le righe, quello che ha detto ieri Allegri, questo insistere sullo snodo scudetto, anche se siamo solo alla quarta giornata, forse c'è anche il tentativo di tenere un po' alta la tensione, sì. Quello, anche, vabbè, anche per evitare il rischio che ogni vittoria in Italia sia considerata scontata. Sì, sì, no, ma anche perché comunque ha ragione Mister Allegri, ma per il semplice fatto che effettivamente una squadra non può vincere tutte le partite e proprio quella pressione che hanno addosso di vincere potrebbe essere controproducente. Detto ciò, questa partita è un terno all'otto, quindi non ci sono dei pronostici veri, anche se in queste situazioni qui vedo sempre un po' favorita l'Inter come un po' di anni addietro, quando in un periodo grigio ha avuto poi la luce con quella partita vinta, se non sbaglio, 3-1. Sì, il 3-1 di Stramaccioni, prima volta che lo Juventus Stadium è stato violato. Chissà se lo ricorda anche Enrico Bertolino. Ciao Enrico. Come no, ciao a tutti, te lo ricordo. Sì, hai visto prima Milito prendere il premio? L'ho visto prendere il premio e non mi aspettavo che si cambiasse. Chiaramente, che venisse giù in campo, perché magari la sua presenza, perché la panchina conta, La panchina, cioè, conta, te lo saresti portato in panchina? Sì, in panchina sì, perché non può fare la partita intera, però in culto e terrone noi abbiamo, a quanto vedo, cioè adesso la partita la sto seguendo ed è ancora in una fase di equilibrio, ma è appena iniziata. Nel lungo periodo, cioè conta la panchina, conteranno i cambi in questa partita qua, a meno che poi uno non la risolva prima. E allora noi abbiamo in panchina degli splendidi punti interrogativi come con Dogbia e altri, e loro hanno degli punti esclamativi come c'era Barzagli seduto vicino a Higuain. Sì, e Piazza, il lusso di Allegri. Cioè, tu puoi avere lì della gente che serenamente sarebbe in campo comunque dall'altra parte. Noi abbiamo gente in campo che potrebbe essere serenamente in tribuna. E parlo dei due esterni, ad esempio, con grande amore e simpatia. Il cross di Santone. Esterni difensivi, perché in panchina l'Inter ha Perisic, ad esempio. Che... È quello un'altra cosa che vabbè, però non si deve giocare in 11, per cui vediamo. Sì, cosa... sì. È lo stesso problema che ha Allegri. Andiamo a San Siro, azione della Juventus, Dario. La girata di Dybala di destro però, e allora respinge la difesa nerazzurra che era andata in affanno su un errore all'altezza della tre quarti difensiva di João Mario. Ora la palla però a Candreva e l'Inter prova a ribaltare subito il fronte d'attacco e lo fa ancora col centrocampista portoghese che appoggia su Eder, chiuso da Benatar, calcio al centro, ritardi di testa e con la spalla previdenziale l'intervento di Bonucci a respingere il colpo di testa del capitano nerazzurro ben oltre il dischetto del rigore, vicinissimo alla porta di Buffon, provvidenziale l'intervento, come dicevo, di Bonucci. Partita che sembra accendersi quando siamo al 21esimo, 0-0 a San Siro tra Inter e Juventus. Sì, si vedono, Enrico Bertolino, lampi di Inter. Sì, Sì, si vedono delle lampi di Inter che sono confortanti rispetto al buio pesto di mercoledì, che non era però, sembra che aveva messo giù una formazione di subbuto mercoledì De Boer, però insomma sono, è una squadra da Juve a cui non puoi lasciare niente perché è una squadra completa e perfetta. Proprio la perfezione, cioè quella volta da Juventus Stadium eravamo ancora più mortificati, no? Sì, c'è questa percezione, la diceva prima un tifoso della Juventus, ma ce l'ha spesso in questi grandi confronti chi ci entra da assolutamente sfavorito, cioè questa percezione che si possa ribaltare qualcosa. Io, se devo dire la mia, credo sia quasi sempre soltanto una percezione, cioè sì, poi i valori in campo contano. Da sei anni l'Inter ad esempio a San Siro non batte la Juventus e sono sì, i sei anni del dominio juventino, non è un caso. Sì, guarda, in effetti è vero, perché poi ti dico, ci sono l'unica cosa che può, cioè da una parte c'è la Juve che non ha niente da perdere, nel senso che è davanti, ha 9 punti, può anche pareggiare, può serenamente fare qualsiasi cosa, anche se ormai è chiamata sempre a vincere. Dall'altra c'è l'Inter invece che non può perdere, perché se perde poi innesca una serie di riflessioni dove De Boer, che mi diceva prima sta imparando l'italiano, gli fermerebbero i corsi. E non è che si parla più di panettone ma di caldarroste, sì, sì. Perché a Milano è una piazza così, cioè non è di Francesco che può perdere 3 partite e poi serenamente viene coccolato, nemmeno il Feyenoord dove puoi perderne 8 come ha citato lui ieri. No, non si può, a Milano non si può perché poi il pubblico rumoreggia su tutti, però dico, non lo so, cioè, sinceramente la Juventus ha l'unica cosa che quest'anno, parlo in generale, se non vince in Europa è come se non avesse fatto niente. Un po' di pressione si può sentire. Mi dici come va a finire questo Inter-Juve? Allora io per scaramanzia dico che la Juve vince e nel sottotesto dico che se non vince meglio così, cioè se vince l'avevo detto, se non vince meglio così. Vabbè, questa è la classica, però registriamo. È la gufata invertita del tipo siete più forti voi, non potete perdere. Chiaro, chiarissimo. Quindi per Enrico Bertolino il juventino si sfrega l'attributo, in certo, questo caso. Certo, ma sicuramente ma lo vediamo anche dietro al vetro dove c'è qualche juventino di fede provata, qui Ma però è una forma di rispetto, non è quel pronostico del tipo si vince tutto noi. No. Però la squadra adesso è in campo, almeno c'è, perché mercoledì c'erano degli zombie, c'era Dead Man Walking e adesso invece c'è qualcuno che cammina e che corre. Sì, come ha detto Moratti, quello di giovedì è stato un allenamento, fatto bene ma pur sempre un allenamento. Avevano il pigiama, no? Avevano la maglia ed erano già pronti per andare a dormire. Andiamo a San Siro, Dario Ricci, grazie Enrico intanto. Grazie a voi. Dario Ricci, San Siro. 24esimo di gioco in questo istante, Giovanni, 0-0 tra Inter e Juventus, ma proprio 20 secondi fa una bella azione manovrata dell'Inter, succede abbastanza spesso in questi primi minuti quando la palla passa prima tra i piedi di Banega e poi quelli di João Mario, nell'occasione è arrivata poi Aider che si è liberato al limite dell'area dai 18 metri, ha calciato di destro ma sul fondo, probabilmente il brasiliano avrebbe potuto anche far meglio. Intanto è a terra Benatia, gioco fermo, richiede l'intervento dei sanitari, ma sembra uno stiramento perché vedo che si sta muovendo qualcosa si sta toccando l'adduttore, si sta toccando il muscolo interno della coscia. Intanto vi do anche un aggiornamento statistico, si è un po' riequilibrata la partita, non tanto sul possesso palla ma sul vantaggio territoriale, siamo lì, ma del resto si è visto che negli ultimi minuti l'Inter piano piano ha alzato il baricentro, c'è Benatia che sta uscendo, 24esimo minuto, quindi Allegri che sarà costretto certamente al cambio, c'è Barzagli che sta accelerando le manovre di riscaldamento, mentre nel replay si può apprezzare il momento dell'infortunio di Benatia che ha allungato la gamba, è andato in distensione, ha sentito tirare il muscolo. 800 24 00 24, Roberto. Grazie innanzitutto, buonasera. Grazie a te. No, la mia domanda era sul Milan. Ho paura che anche quest'anno sia la solita musica, nel senso che si parte sempre male e poi non ha fatto questi grandi acquisti, anche perché secondo me ci vuole un playmaker e un centrale. E poi se non riesce, adesso oddio, questo Locatelli, che se ne parlo bene, anche se giorno, perché Montella non prova a lanciarlo, dico, anche perché ho paura che a lungo andare, e poi non vengono i risultati, ci va di mezzo lui che alla fine magari non c'entra niente. Sì, anche se Roberto mi pare che Montella stia facendo un lavoro dignitoso. Noi lo diciamo da quest'estate, la qualità della rosa è quella che è, però è una squadra del Milan, mi pare che abbia un'identità riconoscibile, sì, anche per i tifosi. Sì, quello è vero, in effetti c'è sempre un miglioramento, però dico, non vedo almeno in questo inizio queste, oddio, avrà un po' di tempo, avrà bisogno ancora un po' di tempo Montella, però la mia paura è sempre questa, che poi a lungo andare ci va di mezzo l'allenatore che non conta nulla, se non gli fanno gli acquisti come si deve. E lui si deve arrangiare in qualche maniera, dico, non so se sbaglio, ecco. No, a Milano qualunque sponda tu alleni e qualunque ciclo storico tu alleni tra Inter e Milan, sei chiamato a fare risultati, e lo sconto non lo fanno nessuno e non lo faranno nemmeno a Montella. Grazie Roberto. 30 secondi a San Siro, Dario Ricci. 27esimo di gioco, è entrato appunto Barzagli al posto dell'infortunato Bennatea. Juventus che si appoggia in maniera più efficace su Alexandro sulla sinistra rispetto a quanto capita dall'altra parte con Lichtsteiner, che tra l'altro al 18esimo è stato ammonito per un fallo su Miranda. Anche in questo istante, mentre parlavo, il brasiliano ha provato a scendere sulla sinistra, puntuale D'Ambrosio questa volta a chiuderlo in fallo laterale. Juventus che continua però a manovrare, questa volta proprio sul lato opposto sulla destra, e proprio con Lichtsteiner che va a cercare Khedira. La palla rimbalza quasi inavvertitamente sul corpo del tedesco e allora João Mario può riconquistarla e cercare in profondità Candreva. Bravo però Bonucci a intuire e ancora a riappoggiare su Mandzukic. In questo istante defilato sulla destra si accentra il croato, appoggia Dybala sulla tre quarti offensiva bianconera. Pjanic va ad allargare ancora su Lichtsteiner che punta a Santon, il cross, la deviazione, sarà calcio d'angolo, il terzo della partita per la Juventus. Allora io saluto Massimo Zampini. Massimo, ciao, grazie ciao. Della disponibilità. Noi abbiamo la pausa adesso, vediamo se riusciamo a raccontare il calcio d'angolo per la Juventus da San Siro con Dario Ricci, poi andiamo in pausa, poi ripartiamo da Massimo Zampini. Dario. È Pjanic sul pallone, ma si avvicina anche Dybala, perché effettivamente da lì anche il sinistro dell'argentino potrebbe disegnare una parabola interessante. Intanto a centro aria Chiellini, Bonucci pronti a sfruttare le azioni di disturbo di Khedira, il cross sul primo palo, bravo Icardi a farsi trovare puntuale, riprova a rilanciare in avanti Asamoah, tenta il tocco Bonucci ma la palla è tra le mani sicure di Handanovic. 28esimo di gioco, 0-0 tra Inter e Juventus a San Siro. Ci fermiamo un minuto, torniamo su. Tutti convocati. Tutti convocati. Tutti convocati. Trentuno minuti sul cronometro, 0-0, c'è Massimo Zampini collegato, c'è una punizione per l'Inter, ce la facciamo raccontare rapidamente da Dario Ricci a San Siro. Dario. Calcio a Banega, sempre dal laterale destra dell'area di rigore, respinge la difesa juventina, una punizione ingenuamente regalata da Chiellini per un fallo decisamente inutile su João Mario. Banega però non ne ha approfittato, adesso può ripartire la Juventus sempre sulla propria tre quarti difensiva. Asamoah conquista un fallo per la spinta di Murillo. 0-0 Giovanni. Sì, intanto segnaliamo anche due ammonizioni nella Juve, Lichtsteiner e Barzagli, che era appena entrato al posto di Benatia a due minuti e si è fatto ammonire per un fallo su Eder che gli aveva preso il tempo. Massimo Zampini, ciao Massimo. Ciao. Che ti sembra di questa prima mezz'ora? Ma non divertentissima, sinceramente. Un Inter abbastanza aggressiva, la Juve mi sembra non produca molto gioco, anzi spesso qualche rinvio, un po' sbilenco e poco altro. Qualche occasione, poi non è che l'Inter sia molto più pericolosa, anzi magari la Juve quando va avanti ha qualche occasione, però al momento nulla è particolarmente divertente. Sì, ma ti aspettavi qualcosa di più da Juve? È una Juve con Pjanic regista, quindi dovrebbe avere più qualità in mezzo al campo. Sì, guarda, io immaginavo invece fosse una partita complicata, che poi si ride, si scherza tra tifosi e avversari, però l'Inter in casa, e questa partita sappiamo che la gioca comunque giustamente anche alla morte, è una squadra che ha tanti giocatori di qualità, quindi non mi aspettavo, rispetto a tanti anche tifosi juventini, forse non mi aspettavo una partita facile a San Siro. Tutt'altro, certo la Juve di più può fare, questo è sicuro. Che idea ti sei fatto di Higuaín in panchina? C'è chi dice anche bisognava evitare a Mandzukic lo shock, il record delle tre panchine consecutive. Cosa mai capitata? Attenzione San Siro! Che occasione che ha sprecato Khedira al 34esimo, c'è stata un'illuminazione di Dybala che ha aperto splendidamente su Alexandro. Adesso seguiamo però Icardi che si libera di Chiellini, la palla fuori schifosissimo, il destro al giro del capitano nerazzurro sul secondo palo, fuori davvero di niente, in un minuto le due azioni più belle e più pericolose della partita. Riavvolgiamo un altro, c'è stata l'apertura di Dybala sulla sinistra per Alexandro, il cross e Khedira tutto solo nell'area di rigore interista da non più di 8 metri di testa, colpisce male, la palla finisce morbidamente tra le mani di Handanovic. Sulla ripartenza bravissimo Icardi a sradicare il pallone dai piedi di Chiellini e a portarsi la palla sul destro, un morbido destro a giro, traiettoria quasi perfetta sul secondo palo, fuori davvero di pochissimi centimetri. Ancora 0-0, ma questa Inter-Juventus sembra iniziata adesso. Sì, abbiamo vissuto le prime due grandissime emozioni, Massimo. Chiellini non perfetto, no, nella chiusura su Icardi. Dietro oggi qualche spavatura, rimane l'impressione anche sull'azione prima che ha commentato da San Siro, che abbiamo sentito commentare da San Siro, di una Juve che fa molto poco, quando fa si trova magari spesso con l'attaccante praticamente da solo, in questo caso era Khedira da solo avanti alla porta, quindi l'Inter mi sembra faccia qualcosa in più. Io credo che se la Juve spingesse un po' la difesa dell'Inter non sia proprio impenetrabile. Sì, a me la cosa che mi viene all'occhio dopo questi primi 35 minuti e aver visto che in un attacco con Dybala e Mandzukic quello che si sta rendendo pericoloso è Khedira. Questo capita spesso quest'anno, devo dire, abbiamo visto anche con Siviglia, quando c'erano Dybala e Higuain, Khedira quest'anno sta inserendo spessissimo, e questo è un'arma in più anche del movimento che fanno Dybala e Mandzukic. Poi certo, anche gli attaccanti dovrebbero tirare in porta, però al momento non hanno avuto la possibilità. Ma tu Higuain l'avresti tenuto fuori? Ma guarda, io non so come sta Higuain, se sta al meglio non lo toglierei mai possibilmente, però sai, se si vogliono rose di 20 giocatori, ma Mandzukic primo cambio non può neanche pensare di farlo giocare solo col Crotone una volta ogni mese e mezzo, quindi in questo senso mi va bene. L'anno scorso abbiamo vinto lo scudetto con Mandzukic e Dybala titolari, non è che ora non possano fare una partita a San Siro. Sì, io capisco anche le necessità di Allegri di tenere tutti vivi, perché se comincia a seppellire Mandzukic in panchina per tutta la prima parte della stagione, quando poi ti servirà, e prima o poi ti servirà, diventa anche difficile coinvolgerlo. Come finisce, vista la prima mezz'ora? No, questo figurati se te lo dico. No, questo non te lo puoi aspettare da me. Quindi. Idea. Però mi sembra molto equilibrata, questo sì, quindi potrebbe essere un pareggio, diciamo. A me sembra che ci sia un po' meno Juve di quanto si aspettasse, devo dire la verità, ma non pensando che fosse una partita facile. Inter-Juve non lo è mai, però mi sembra che sia entrata meglio l'Inter. Sì, al momento è così, più decisa, più cattiva, sai, si capisce per loro, e questo senza ironia, è davvero la partita un po' del dentro fuori su tante cose. La Juve la gioca, anche se vede dei cambi che ha fatto, come se fosse una partita importante, uno snodo, come ha detto Allegri, ma non decisiva. Grazie Massimo. Grazie a voi, ciao ciao. Grazie Massimo Zampini. Sapete chi sta guardando anche questa partita con grande interesse, forse? Sarri. La differenza economica è così vasta in questo momento con noi, ma anche con tutte le altre competitors italiane, per cui la Juventus farà il campionato che fa il Bayern Monaco in Germania e che fa il Paris Saint-Germain in Francia e che fa Barcellona e Real Madrid in Spagna. Certo. La realtà è questa, purtroppo. Se loro non faranno cazzate enormi, e loro solitamente non fanno cazzate, quindi la realtà è questa. Questo Sarri ieri sera, saluto Boris Sollazzo, altro spettatore interessato. Intanto il tiro a giro di Cardi aveva colpito il palo. Ciao Boris. Ciao Gianni. Però fammi andare a San Siro, perché la Juve ha avuto un'occasione colossale per portarsi in vantaggio. Un'altra splendida azione di Dybala sulla sinistra, rientra, si libera della marcatura di Santon e appoggia di sinistro al limite dell'area per Pjanic, il morbido destro sul secondo palo, palla che esce davvero di pochissimo. Beh, quando la palla passa per tali piedi, inevitabile che si creino certe occasioni. Ancora sì. 0-0 però. Sì, sì, Handanovic la stava semplicemente guardando, l'ha accompagnata fuori con gli occhi e l'ha vista quasi accarezzare il palo alla sua destra, palo che invece, lo abbiamo visto nel replay, aveva colpito Icardi, scheggiato il palo con quel diagonale destro che abbiamo raccontato in diretta. Oh, Boris Sollazzo, sentito Sarri, la Juve farà la corsa del Bayern, del Paris Saint-Germain. Io credo che la Juve sia superiore, credo sia un po' eccessivo il giudizio di Sarri. Ma abbiamo visto che il Barcellona può perdere in casa con l'Alaves, il PSG fare due pareggi all'inizio con un nuovo allenatore. Il punto è che la sostanza di quello che dice Sarri è verissimo, insomma, devono fare loro delle cazzate. E per come conosco io Massimiliano Allegri, che proprio insieme a Sarri è il miglior allenatore che c'è in Italia, veramente lo deve fare di proposito per perderlo. Ha una squadra pazzesca, all'intelligenza, e non avevo dubbi, di gestirsi Higuain, che è uno che si spenderebbe molto di più e che se ti tieni, se lo tieni a freno, cioè se non gli fai venire il malumore perché non gioca tutti i 90 minuti anche della partitella del giovedì, è un'arma ancora più letale, perché in questa Juve lui non ha la forma che hanno gli altri, però ha un fiuto, una tecnica che hanno gli altri. Insomma, mi sembra che anzi, invece di fare corbellerie, fa tutto quello che serve. Poi per quanto riguarda quello che diceva Massimo, francamente c'era poca Juve anche nel primo tempo con la Lazio, poi abbiamo visto come è andata a finire, quindi insomma, complimenti all'Inter che si sta facendo valere, ma non ho molti dubbi sul pronostico finale di questa partita. Sì, sì. Su Sarri invece io non so se sia la strategia comunicativa ideale in un momento in cui il Napoli avrebbe bisogno anche di riaccendere un po' l'entusiasmo della gente. L'abbiamo visto ieri, 21.000 persone, erano poco più per Napoli-Milan. De Laurentiis che ha detto, secondo me minacciato, insomma, di costruirsi uno stadio bombonera da 20.000 solo per i soci. Vabbè, la squadra in questo momento è tecnicamente prima in classifica, Stiamo parlando di un ambiente che non dovrebbe contestare. Ma fermo restando che io trovo demenziali le contestazioni De Laurentiis, l'ho sempre contestate. Poi se avessimo costruito tutti gli stati che ha detto De Laurentiis, adesso ne avremmo 4 a Napoli, quindi quelle sono provocazioni. Una volta bisognava andare a Caserta, un'altra volta avremmo fatto la Champions League a Palermo, e adesso abbiamo lo stadio da 20.000 posti. De Laurentiis è una persona intelligente, sta cercando di smuovere l'ambiente, sta cercando di dire a tutti che Napoli e il San Paolo non possono essere quel teatro lì, insomma, ma parlo anche dell'Olimpico, penso anche all'Olimpico. È necessario che la Roma faccia uno stadio, perché all'Olimpico guardi male la partita se non la guardi affatto. Quindi lo sappiamo chi è De Laurentiis, lo sappiamo che ama provocare. Dall'altra parte c'è, secondo me, una minoranza che incredibilmente contesta un presidente che non ne sbaglia una, perché ieri in campo c'era solo uno sbaglio di De Laurentiis ed era Donadoni, abbiamo visto, sì, poi dai... ed allenava il Bologna. Allenava il Bologna, esattamente. Quindi francamente mi irrita molto parlare delle contestazioni a De Laurentiis, perché le trovo una follia. Per il resto io temo che le 21.000 persone non dipendano dal Napoli né da De Laurentiis, ma dal fatto che dice Sarri, cioè sembra un campionato già chiuso. Voglio dire, se il Napoli ha fatto 3 vittorie e un pareggio di fronte a una Juventus che sembra imbattibile, forse alcuni tifosi, non io, non si divertono. Sì, mi sembra, Boris, una resa onestamente prematura, oltre che anticipata. Abbiamo il traffico, grazie a Boris Sollazzo. Saluto subito Mario Boni, ciao Mario. Ciao, buongiorno. Interista Doc che sta soffrendo traffico, poi torniamo a San Siro, 42esimo 0-0 dopo il traffico, poi insomma proviamo a mettere il punto su questo primo tempo. Tutti convocati. Se vuoi ora a Milano vuol dire che sei di burro, sa me che dura poco quello lì a Milano sole. Tutti convocati. Tutti convocati. Andiamo a San Siro per farci raccontare l'ultimo minuto del primo tempo di Inter-Juventus. Dario. 45esimo di gioco, bravo Medel a strappare il pallone dai piedi di Khedira al limite dell'area, a rilanciare l'azione interista. Ma Juventus che sta provando, senza riuscirci per la verità, però a spostare un pochino il baricentro dell'azione. Lo si intuisce dal fatto che Pjanic è salito di qualche metro nella metà campo nerazzurra. Adesso è Barzagli che chiude su Eder, Lichtsteiner prova a toccare in avanti, attento Murillo a rimpostare su Medel, il rilancio verso Icardi anticipato da Bonucci, stretta di mano cavalleresca fra i due, mentre il pallone è tra i piedi di Chiellini, che ora appoggia su Banzagli sul lato destro, che tira, chiama in causa Lichtsteiner. Sentiamo quanti minuti, un minuto di recupero, ancora un minuto di, per questo primo tempo, mentre Chiedira che manovra all'altezza della tre quarti, ritmi lenti in questa fase, Juventus che ha trovato fatica ad accelerare, ad alzarli questi ritmi, in merito dell'Inter puntuale nel pressing e brava a ripartire con i suoi piedi buoni, quelli di Banega, di Candreva, di Joao Mario, che hanno dato sicuramente qualità al palleggio nerazzurro. Sì, ora, mi sembra che l'idea del pareggio in questo primo tempo non dispiaccia alla Juve, almeno a leggerla in questi ultimi secondi. A te Dario. Direi di sì, intanto arriva la terza ammonizione per i bianconeri in questo primo tempo, è per Asamoah, autore di un fallo a centrocampo, se non ho visto male, su Icardi o su Joao Mario, scusate, perché l'Inter stava per ripartire in contropiede, quindi Lichtsteiner, Barzagli e ora Asamoah, ben tre ammoniti in questo primo tempo che va a chiudersi ora 0-0 dopo i primi 46 minuti di gioco qui a San Siro. Giovanni. Marione Boni, dammi un voto all'Inter di questo primo tempo. 7, ha giocato bene perché ha corso, finalmente ha corso, giocatori buoni, straordinari, João Mario e Banega, che si sono alternati nella zona alta e nella zona bassa del campo, quindi bene, ho visto bene l'Inter. Quindi aveva ragione ieri De Boer a dire non abbiamo più nessun alibi di condizione fisica, lavoriamo da 40 giorni, abbiamo lavorato bene e a questo punto la condizione c'è. Ma io vedo che il disastro dell'Inter è stato Roberto Mancini, perché tutta la storia di quest'estate con la rottura di palle, scusatemi il termine, di rimango o non rimango, un allenatore che prende 9 milioni di euro ha creato un'incertezza societaria notevole, quindi si è trasmessa anche ai giocatori, hanno lavorato poco e si è visto in campo. Ecco, tu sei di quelli che, e ce ne sono tanti tra i tifosi dell'Inter, che ritengono che anche le sconfitte, anche quella di giovedì, siano da imputare alle macerie lasciate da Mancini. Cosa che secondo me non è. Secondo me, ad esempio, la sconfitta di Verona ha un padre e sono le scelte di De Boer. Però sono tanti tifosi della Juve che pensano. Ti chiedo 10 secondi perché c'è Santone, microfoni di Premium. Adesso ci fermiamo, una brevissima interruzione. No, è finita. Dicevamo, Mario. Sì, io credo che Roberto Mancini sia un ottimo allenatore, però ha delle grandissime responsabilità, perché arrivare un allenatore nuovo come Frank De Boer, non nascondiamoci, avendo allenato solo l'Ajax, deve prendere confidenza con quello che è il mondo dell'Inter e anche i giocatori. Io invece credo fortemente che Roberto Mancini l'abbia fatta troppo lunga. La società forse ha sbagliato a non cacciarlo prima. Però il dato di fatto è che un allenatore, una società, un cambio di proprietà come è stata quella dei cinesi, arriva un allenatore che costa 9 milioni, credo che ci fosse qualche giusto pensare se era il caso di mandarlo via o tenerlo. D'altronde Mancini è un buon allenatore, però ecco, il dramma dell'Inter è stato Roberto Mancini, questo è il mio punto di vista, perché non ha permesso di costruire. Quindi una nuova tu pensi Inter. Che sia una follia anche solo ragionare di un esonero di De Boer, di una successione? Ma sai, adesso come adesso, chiaro, uno vede l'Inter che ha giocato contro l'Apoel, contro il Basheva, e dice, beh, qui c'è da mettersi le mani nei capelli. Poi vedi il centrocampo che gioca Felipe Melo con Felipe Melo e altri giocatori non all'altezza, e c'è da mettersi le mani nei capelli. Però dal mio punto di vista, che l'allenatore deve avere il tempo di lavorare. Grazie Mario. Ok, grazie a voi. Ciao. Grazie Marione Boni. Giancarlo Padovan sul primo tempo di Inter Juve 0-0. Direttore, ciao. Ciao. Io faccio una sintesi. È stata una discreta Inter. Pareggio meritato, però non va dimenticato che due volte la Juve è arrivata solo davanti al portiere con Khedira. Sì, no, è vero. Però, insomma, rispetto a quello che ci si poteva aspettare, a quello che vaticinavano i tifosi bianconeri, dopo mezz'ora vinciamo 4-0. Sarà un tracollo, la Juve stravincerà, direi che l'Inter ha fatto bene. Certo, tu hai il tuo discreta, è un aggettivo più appropriato, diciamo, della bella Inter, che vorrei dire io. La Juve però ha qualche difficoltà. La prima difficoltà è aver acquistato un giocatore da 90 milioni e tenerlo in panchina. Io questa la ritengo una cosa fuori dal mondo. Ma tu ti immagini una staffetta adesso nell'intervallo? Sì, ma Allegri deve cambiare mestiere se pensa alla staffetta avendo i guai in panchina. Ma deve secondo te perché l'ha messo in panchina? E deve cambiare anche società, secondo il mio punto di vista, perché non esiste in natura un giocatore che viene pagato 90 milioni e va in panchina dopo aver fatto già 3 gol, cioè avendosi dimostrato che c'era questo giocatore. Non è un giocatore qualsiasi. Detto questo, perché l'ha messo in panchina? L'ha messo in panchina probabilmente perché vuole dare a Mandzukic la sensazione, magari anche la realtà, non solo la sensazione, che questo che lui non è una riserva, che non è un buono per le occasioni diciamo così ordinarie. Cioè, io penso che adesso è un problema Mandzukic, non un problema Higuaín. Ma ripeto, Higuaín si deve mettere in campo sempre e dopodiché sì, creare un gioco che sia all'altezza di Higuaín e per sfruttare. Oggi la Juve, esattamente come Cotiglia, ha dimostrato che ha problemi nell'impostazione, nella velocità, nella prevedibilità. Sì, è ancora da questo punto di vista un progetto incompiuto. Può sembrare paradossale dirlo, però lo sprazzo poi si vede, perché ripeto, 3 accelerazioni, 2 volte Khedira davanti al portiere e poi la conclusione di Pjanic, che insieme a quella di Icardi è la grande occasione. Come hai detto tu, però 3 sprazzi, 3 accelerazioni, non 3 situazioni di gioco create con maestria, insomma, secondo il mio punto di vista. Cioè, l'ultima, secondo me la più clamorosa, quella di Khedira, e Khedira è anche un buon colpitore di testa, ha colpito malissimo. Sì, l'ha praticamente passata ad Handanovic. Direi che il giocatore che mi ha più convinto tra tutti questi della Juve, e anche tra i giocatori d'attacco, direi è Dybala, che non a caso gioca sempre, cioè gioca sempre perché è il giocatore... Sì, in questo momento è il vero titolare davanti della Juve. Grazie direttore! Grazie a te, un saluto, ciao! Abbiamo il GR, ci fermiamo qui. Io ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Filippo Aureggi e Roberta Frisani, che si sono alternati in regia. Inter-Juve, continuiamo a seguirla con Dario Ricci da San Siro nel corso dei nostri appuntamenti. Domani dopo il GR delle 14 invece la commentiamo. Ciao! Tutti convocati. I love this game.